GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ricerca a tappeto a Trieste del detenuto evaso ieri pomeriggio dal carcere del Coroneo. Si tratta di un 31enne che faceva parte di un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga. I sindacati di polizia penitenziaria, il governo prenda atto dell'emergenza carceri. Auto e scooter incendiati nella notte a Borgo San Sergio a Trieste. Non è la prima volta. A luglio 5 veicoli erano stati dati alle fiamme all'interno del comprensorio ATER della zona. L'ultimo episodio un mese fa. Il rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente fotografa una situazione non rosea in regione. Forze dell'ordine e Capitaneria di Porto hanno accertato 856 reati ambientali che fanno salire la regione dal 18° al 15° posto nella classifica nazionale. La fotografia della salute energetica degli immobili in regione fa emergere che solo il 16% delle case rientra nelle classi green, ma l'inversione di tendenza è già iniziata. Oggi il punto da parte di Friuli Venezia Giulia Energia. La corsa ai regali di Natale rischia di rivelarsi piena di ostacoli, se non di vere e proprie trappole. Non si tratta soltanto degli aumenti improvvisi dei prezzi, che ci sono, ma anche di vere e proprie truffe, le avvertenze dell'Associazione Consumatori Attivi. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. E caccia al detenuto evaso ieri dal carcere del Coroneo a Trieste. L'uomo si sarebbe nascosto sotto un telone, forse durante l'ora d'aria, e quando si è trovato senza controllo avrebbe scavalcato la zona dei passeggi e, scavalcando un muro interno, sarebbe uscito direttamente in strada. Intanto in furia la polemica innescata dai sindacati di polizia penitenziaria, che sottolineano dalle carceri italiane si fugge come se fosse un gioco da ragazzi. Ancora nessuna traccia di Khan Nasir, il 31enne pakistano che ieri pomeriggio è evaso dal carcere del Coroneo di Trieste. Nasir è fuggito attraverso un cantiere situato proprio all'esterno della struttura dopo essere riuscito a scavalcare un muro. Si è aiutato con delle lenzuola, come nei film, lenzuola che aveva nascosto sotto il cappotto e che sono ancora appese lì, verso l'esterno. A svolgere l'attività di indagine è il nucleo investigativo della polizia penitenziaria, che si avvale dell'aiuto delle registrazioni di telecamere di videosorveglianza e di eventuali testimonianze per ricostruire possibili vie di fuga. L'uomo era residente a Cordenons nel 2019 quando fu coinvolto in un'indagine della questura di Pordenone sullo spaccio di stupefacenti, operazione che vide lo smantellamento di un gruppo di giovani richiedenti asilo che, secondo gli investigatori, vendevano cocaina, hashish ed eroina a Pordenone. Immediatamente ieri è stata diffusa una nota di ricerca alle forze di polizia, che si sono attivate con controlli specifici. Per ora, senza risultati, lo cercano in città e nei dintorni. Il sindacato UIL della polizia penitenziaria punta il dito contro il sovraffollamento che rende più difficile il controllo da parte degli agenti. Nel carcere triestino sono circa 240 detenuti, poco meno del doppio della capienza prevista. Secondo i sindacati, inoltre, è necessario un potenziamento dell'organico della polizia penitenziaria, mancano almeno 20-25 unità, secondo Alessandro Penna, rappresentante della UIL penitenziaria di Trieste. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Incendio di veicoli nella notte a Trieste. In un'autorimessa annessa a un condominio in via Grego, nel rione di Borgo San Sergio, alla periferia della città, sono andati distrutti 4 motocicli e 7 autovetture, di cui 5 completamente avvolte dalle fiamme e 2 danneggiate. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Trieste con la squadra del distaccamento di Muggia, che hanno provveduto a domare fumo e fiamme utilizzando anche la schiuma antincendio. Spento il rogo, i soccorritori hanno provveduto alla bonifica dell'area dei mezzi andati a fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone. Sul posto anche la polizia. Si tratta dell'ennesimo caso di incendio di autovetture nella periferia est della città. A luglio 5 veicoli erano andati a fuoco nel comprensorio ATER della zona e un mese fa a Campanelle erano state danneggiate 7 macchine. Nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio coordinato dai carabinieri di Monfalcone, nei giorni scorsi i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia hanno effettuato un controllo in un esercizio pubblico di Monfalcone, riscontrando diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al titolare sono state contestate violazioni per l'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la mancata nomina degli addetti all'emergenza e al primo soccorso, la presenza di una cassetta di primo soccorso priva del contenuto minimo previsto e l'installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Sono state inoltre levate 4 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 18.000 euro. La polizia locale di Udine, al termine di un'attività d'indagine, ha denunciato all'autorità giudiziaria una donna di 47 anni, residente a Campoformido, per il reato di furto aggravato. La donna si era resa responsabile di un furto avvenuto all'interno di un bar del centro storico di Udine, ai danni della titolare. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, la ladra era riuscita a sottrarle il portafogli che si trovava all'interno di una borsa custodita in un armadio posto sul retro del bancone. All'interno c'erano circa 100 euro in contanti, documenti di identità e alcuni effetti personali di valore affettivo. Per compiere il furto, la donna aveva indossato una mascherina sanitaria e una felpa con cappuccio, così da rendere difficoltoso il riconoscimento. Determinanti per l'identificazione sono state le immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale. Una volta salita su un autobus della linea urbana e lasciata la zona del centro storico, la donna ha però abbassato la guardia. Scesa dal mezzo pubblico, è stata ripresa in modo chiaro dalla telecamera installata a bordo, consentendo un'ottimale inquadratura del suo volto. Eccoci alla pagina dedicata alle previsioni meteo. Il tempo, il cielo è variabile sopra nuvole a costa, sereno in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi, a Pordenone 9, a Gorizia 8,5, a Udine 8, a Forni di Sopra 7, a Piancavallo 6,5, a Tarvisio 6, a Tolmezzo 5,5, a Sappada meno 2,5, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Monte Lussari 4, a Grado e Lignano 7,5. Le previsioni per oggi, cielo in prevalenza variabile su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. In corso a Udine la presentazione del rapporto Ecomafia del 2025 da parte di Lega Ambiente. Vediamo quali sono i principali illeciti ambientali emersi in regione. Rapporto Ecomafia 2025, Daniela Monreale è la coordinatrice del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Friuli Venezia Giulia. Le chiediamo quali sono le principali illegalità ambientali in regione. Le principali illegalità ambientali in regione sono ben distinte all'interno delle quattro province. Su Udine vediamo che c'è stato un grandissimo aumento di quelle che sono ipotesi collegate al traffico illecito di rifiuti. Abbiamo addirittura, rispetto all'anno precedente, un aumento dell'89,3% dei casi e delle ipotesi contestate. Sempre su Udine abbiamo il ciclo del cemento, sia sotto l'aspetto dell'edilizia, dell'urbanistica, delle attività estrattive che tante volte vengono trascurate, e non da ultimo gli appalti per le opere pubbliche. Su Gorizia invece abbiamo grande rilevanza per quelle che sono le ipotesi legate al traffico di animali d'affezione, anche in relazione alla sua particolare posizione geografica. Trieste chiaramente la pesca illegale, mentre Pordenone è emersa come isola felice in cui c'è una scarsissima incidenza di ogni tipo di reato. Udine, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'imprenditoria montana del Friuli Venezia Giulia sta invertendo una tendenza al calo durata per decenni. A dirlo è la nuova analisi economica della montagna del Friuli Venezia Giulia, elaborata dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine su dati Istat e Infocamere, che illustra come per il quarto anno consecutivo il saldo tra iscrizioni e cessazioni d'impresa è risultato positivo. Al 31 dicembre 2024 le sedi di impresa registrate erano infatti 5.018, 43 in più dell'anno precedente. A livello settoriale l'incremento è stato sostenuto soprattutto dal settore dei servizi, che registra la variazione percentuale maggiore con un 5,5% di aumento, seguito dalle costruzioni con il più 1,6%. In calo invece commercio, industria, alloggio e ristorazione. Il tessuto imprenditoriale montano si distingue inoltre per una marcata presenza femminile, con una percentuale di imprese rosa del 26,4%, 4 punti superiore alla media regionale, e con un picco del 30% in Canal del Ferro e Valcanale. La fotografia della salute energetica degli appartamenti e degli immobili della regione fa vedere che solo il 16% delle case rientra nelle classi cosiddette green. L'inversione di tendenza però è già iniziata, l'obiettivo indicato da Piero Mauro Zanin, direttore generale di Friuli Venezia Giulia Energia, la società che è il braccio operativo della regione per le politiche di settore. Sentiamolo. Zanin, 16% sono dati non confortanti ma comunque migliori rispetto al dato nazionale. Come si può migliorare questa situazione? Diciamo, registriamo sicuramente un aspetto positivo della nostra regione rispetto all'andamento. Bisogna investire, come fa la regione, sul miglioramento del patrimonio edilizio privato e quindi con una serie di investimenti volti all'efficienza energetica, perché sono poi investimenti virtuosi, perché evitano consumo di energia. L'energia costa e quindi, come ci insegnano tutti, la migliore energia rinnovabile è quella non consumata, e quindi il recupero e il risparmio. Bisogna fare campagne di informazione, far capire alla gente che investire in efficienza e in efficacia vuol dire investire sulla propria qualità della vita, perché vivere in un ambiente salubre, un ambiente nel quale l'energia viene utilizzata per quello che serve, è un ambiente che in qualche modo ci migliora dal punto di vista del benessere e quindi anche della qualità. E oltre a dire che, insomma, un patrimonio edilizio efficiente dal punto di vista energetico vale di più e quindi anche un valore economico, voglio dire. Quindi uniamo quelle che sono le tre fattispecie importanti della sostenibilità: il valore economico, il valore culturale, ambientale, oltre anche quello sociale e quindi anche del benessere, perché gente che sta bene vuol dire che consuma meno in termini di costo per la salute. Quindi voglio dire un'operazione win-win. Su questo la regione investe molto, investe con la nostra società ha l'obiettivo di portare quel 16% a diventare maggioranza nel patrimonio edilizio della nostra regione. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La polizia locale di Trieste ha assunto 19 nuovi agenti, fra loro anche due donne e tre ex militari dell'esercito che sono stati presentati oggi. Il servizio. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'assunzione di 19 nuovi agenti di polizia locale a Trieste, nella caserma di via Revoltella della polizia locale. A maggio di quest'anno era stato pubblicato il bando di concorso per coprire appunto questi 19 posti. Fra loro ci sono due donne e tre militari dell'esercito. Per loro inizia un periodo di prova di 6 mesi, condizione imprescindibile per superare il periodo di prova e concludere positivamente il corso specifico per ottenere l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma in dotazione al corpo. Ecco com'è composto questo nuovo gruppo di agenti. L'età media è di 30 anni, 13 di loro provengono dal Friuli Venezia Giulia, di questi 8 sono triestini. In 6 hanno già una certa esperienza perché lavoravano in altre polizie locali. Per garantire una preparazione completa e approfondita dei neoagenti è stato predisposto un programma formativo articolato che prevede lezioni teoriche e pratiche da svolgersi in aula sia su strada. Quindi sono assunti, ma il percorso è ancora in via di definizione. Verranno comunque presto assunti per lavorare sulle strade caotiche del traffico cittadino di Trieste. A questo proposito l'assessora Caterina De Gavardo del Comune di Trieste ha assicurato una maggiore capillarità nei controlli per garantire appunto la sicurezza dei cittadini in questi giorni di grande caos. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Natale che si prospetta sembra sempre più costoso. Il caro Feste è stato al centro della puntata odierna di Buongiorno Regione, la nostra trasmissione del mattino, tra prezzi in aumento e truffe sempre in agguato, soprattutto per chi sceglie di comprare i regali online. La corsa ai regali di Natale, oltre che faticosa, rischia di rivelarsi piena di ostacoli e di trappole. Non si tratta soltanto degli aumenti improvvisi dei prezzi, che ci sono, ma anche di vere e proprie truffe, e in questo il mondo online, dove ormai viene fatta la maggioranza degli acquisti, può trasformarsi in un campo minato, a partire dai siti clone. La presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis. Sono siti che gemelli rispetto a quelli originali, ma che sono delle vere e proprie trappole. Purtroppo sono indistinguibili rispetto ai siti originali, perché attraverso l'intelligenza generativa ormai non riusciamo più a comprendere la loro falsità attraverso errori di grammatica oppure una grafica piuttosto artigianale. Anche perché i rischi sono numerosi. Purtroppo le nuove tecnologie permettono ai truffatori di poter carpire i codici della nostra carta di credito, i nostri codici di pagamento, anche solo inserendo i nostri dati sul format della pagina che stiamo utilizzando, senza neanche cliccare invio per perfezionare il pagamento. Per orientarsi occorre allora fare ricerche approfondite, controllare sempre le recensioni, diffidare se sono poche o se non ci sono proprio, evitare di seguire link ad altri siti poco conosciuti. Nel momento in cui si utilizzano ad esempio delle piattaforme per effettuare degli acquisti online, ebbene non uscire mai da queste piattaforme, perché le piattaforme ci garantiscono un'eventuale protezione nel momento in cui il prodotto non dovesse arrivare oppure qualcosa nell'acquisto dovesse andare storto. Se ci si accorge che qualcosa non torna e il venditore non è affidabile, si può sempre interrompere l'acquisto o richiamare il pagamento, recuperando così la somma. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura, un ritratto nel silenzio, si intitola così la mostra fotografica dedicata a Pierpaolo Pasolini, allestita al Teatro Miela di Trieste, che ci mostra il poeta dal 1957 fino al giorno prima della sua morte. È il 1957, Pasolini vive a Roma da qualche anno, un inizio non facile quello nella capitale che tuttavia gli permette di diventare il personaggio che conosciamo. La rassegna racconta i suoi primi passi verso il successo e poi gli anni della notorietà fino a quella che probabilmente è l'ultima fotografia scattata a Stoccolma il giorno prima della morte. Ci sono foto che lo ritraggono nelle vesti di attore e sui set dei film da lui diretti, ci sono alcuni dei più importanti personaggi della cultura del tempo come Alberto Moravia, ci sono gli amici e ci sono alcune delle attrici più importanti dei suoi film, da Anna Magnani a Maria Callas. Curano la mostra Marco Puntin e Olga Stock. Quella di quest'ultima è una storia nella storia. Conosce i testi di Pasolini quando ha solo 8 anni e vive in Unione Sovietica. Ha ancora con sé un piccolo libricino di poesie tradotte in russo trovato nella biblioteca della madre. Of course. Ho iniziato a leggere, ma ovviamente non ho potuto capire la complessità delle sue parole. Tuttavia le ho sentite. Era un riconoscimento del cuore, non una comprensione. Pasolini mi ha accompagnato in ogni capitolo della mia vita. È diventato il mio compagno, a volte è stato l'unico a tenermi la mano nei momenti più difficili della mia vita. E posso dire che mi ha letteralmente salvato la vita. Bisogna partire dal titolo. Dopo aver ricordato il centenario della sua nascita e quest'anno i 50 anni della sua terribile morte all'idroscalo di Ostia, ed essere stati inondati da centinaia di parole, ecco, noi volevamo fare un ritratto di lui veramente nel silenzio, per dare la possibilità al pubblico, in particolare al pubblico triestino e al pubblico del Teatro Miela, la possibilità di guardare queste foto e scegliere quella che per ognuno di noi è il Pasolini, diciamo così, preferito. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, basket, in Serie A2 torniamo sulla 7ª vittoria consecutiva per la Gesteco Cividale, che ha trionfato a Pistoia per 81-78 in un match molto serrato. Una vittoria che porta i Ducali al secondo posto in classifica, ma sentiamo il commento post partita dell'allenatore Stefano Pillastrini. Il nostro obiettivo, il nostro piano partita, che da questo punto di vista era riuscito benissimo nell'inizio, era quello di attaccare l'area, quindi di andare molto dentro l'area. Abbiamo fatto nell'inizio solo con Freeman e in generale. Dopo Pistoia ha aggredito tanto e quindi noi non riuscivamo ad avere una buona circolazione. Se non hai una buona circolazione fai più fatica ad arrivare vicino a canestro. Così è stato, però abbiamo ripreso la fiducia nei minuti finali a costruirci tiri, a non andare quando sono stati quei 2 tiri da 3 punti di Redivo consecutivi senza un passaggio. Il primo l'ha segnato, il secondo l'ha sbagliato, però quella era la strada sbagliata. Anche se il primo l'aveva segnato, la strada è diventata di nuovo quella giusta quando abbiamo fatto 3-4 passaggi e siamo riusciti anche a prendere tiri da dentro l'area. Poi la difesa si è chiusa, siamo riusciti a tirare da tre punti. Pistoia aveva messo una fisicità importante e nel primo tempo noi eravamo sopra il rimbalzo e invece abbiamo finito, vedo da statistiche, poi con 5 rimbalzi di Pistoia. Questa è un'altra cosa che credo vada a merito dei giocatori. Con il basket è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Bruno Montevecchi e Mauro Ciccarelli. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.